Buon pomeriggio a tutte e tutti, torniamo in diretta con la quarta puntata di Radio Tagadà, direttamente dallo spazio comune Cuore in Gola di Milano. Oggi puntata ricca di argomenti, parleremo del processo Robin Hood e degli aggiornamenti riguardo l'associazione a delinquere finalizzata all'occupazione di case nel quartiere Giambellino. Parleremo anche dello sgombero di Via Bolla che c'è stato giovedì mattina, come al solito appuntamento con la rubrica di Sport Popolare, ed oggi intervisteremo un atleta del Partizan Bonola femminile, poi chiuderemo col secondo approfondimento sull'analisi della Milano che cambia. Insomma, tanto da dire, ma anche tanto da ascoltare, vai Daina! Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Life is unfair, so I just stare at the stain on the wall where the TV been, but ever since we've moved in, it's been empty. Why I'm in this room, there is no point explaining. You're not the boss of me now, and you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. Life is a test, but I confess I like this mess I've made so far. Great on a curve, and you'll observe I'm right below the horizon. Yes, no. Allora, 14:35, torniamo in diretta con Radio Tagadà. Abbiamo aperto la nostra scaletta musicale con i They Might Be Giants, generalmente abbreviato in TMBG, duo alternative rock statunitense formato da John Lynel e John Flansburgh. Questo è Boss of Me, e per chi non se lo ricordasse, super sigla della serie statunitense Malcolm, andata in onda tra il 2000 e il 2006. Ora, come detto prima, ci sentiamo un contributo di un compagno riguardo il processo Robin Hood, di cui ci sarà l'ennesima udienza il 9 novembre. Ricordiamo che ci sono state due settimane fa anche il processo riguardante lo sgombero degli spazi occupati Corvaccia e Rosanera. Le condanne vanno dagli 8 mesi in giù, e va avanti anche il processo per gli scontri della Trecca. Questi ultimi due episodi si riferiscono sempre al 2014. Ora ci sentiamo l'audio invece del compagno riguardo il processo contro il comitato abitanti in Giambellino. Dunque, la sentenza del Giambellino l'aspettiamo per il 9, che sarebbe mercoledì. Siamo appunto in attesa della sentenza esclusivamente perché alle scorse udienze ci sono state le arringhe degli avvocati, e già c'è stata la requisitoria ancora prima. Il PM ha chiesto dai 2 ai 3 anni, diciamo. confermando il reato di associazione a delinquere, quindi senza smentire nulla da questo punto di vista. Quello che ha provato a fare il PM in sostanza è mantenere in piedi tutto l'impianto accusatorio iniziale, senza però tracciarlo come particolarmente grave, cioè non sconfessare nulla e chiedere i minimi per tutto, così da provare ad ottenere una condanna, appunto, che sono comunque delle condanne abbastanza importanti, ma senza dargli quel profilo per cui ti chiede 10 anni di carcere per tutti quanti, che per cui sarebbe, suonerebbe ovviamente in una maniera diversa alle orecchie di un giudice, che potrebbe quindi rigettare. Così non sconfessa nulla, richiede la condanna per associazione a delinquere, ma al contempo, appunto, richiedendo delle pene tra virgolette basse, prova ad ottenere il risultato. Noi dal canto nostro ci siamo difesi con l'arringa degli avvocati. In precedenza ognuno di noi ha fatto una dichiarazione spontanea, abbastanza corposa, e quindi abbiamo fatto in modo di ricentrare la questione da un punto di vista politico, di respingere le accuse del mittente e di parlare di quello che è veramente stata questa esperienza di lotta del Comitato Abitanti Giambellino. Quindi un'esperienza di lotta all'interno di un quartiere popolare, in cui non ci sono delle persone che occupano le case da un punto di vista, come l'hanno definito loro, gestionale, che per cui appunto sostanzialmente decidono delle graduatorie, spiano la polizia, perché ci hanno anche tacciato di questo nella attività, diciamo, contro gli sgomberi. Ne verrebbe fuori che noi sostanzialmente effettuavamo un lavoro di spionaggio nei confronti della polizia. Questa è la cosa di cui anche ci accusano, no? Mentre invece molto semplicemente la realtà di un quartiere popolare, come può essere quello di Giambellino, ma che, come sono tantissimi quartieri popolari di Milano, è basata sul fatto che ci sono delle case popolari vuote, delle persone che le occupano perché ce ne hanno bisogno, e che poi magari vengono sgomberate, e quindi qualcuno ogni tanto decide di resistere agli sgomberi. Ci ricorderemo tutto quanto quello che è successo nel 2014, quando ci fu l'annuncio del comune di voler fare 200 sgomberi nel giro di un mese. Da quell'esperienza là poi nacque effettivamente il comitato, cioè nacque dalle persone del quartiere, non da un gruppo di compagni che lo pensò a livello politico per ottenerne un ritorno di un qualche tipo. Venne appunto come creazione da parte degli abitanti, e quello rimase. Quindi il comitato era anche un gruppo di persone che mangiava assieme, che faceva delle attività all'interno del quartiere, che dentro al quartiere ci viveva e voleva semplicemente provare a viverci meglio. Questo è quello che era il comitato. Ma in quartiere, dopo la nostra operazione repressiva, che comunque è stata un'operazione repressiva abbastanza imponente dal punto di vista anche della militarizzazione, di quello che ha significato proprio per le vite delle persone, nel senso che appunto quando siamo stati arrestati noi, assieme ai nostri arresti, contestualmente è stata sgomberata la base di Solidarietà Popolare, che era il luogo dove il comitato si organizzava. E inoltre il quartiere è stato veramente militarizzato e sono state tantissime le case perquisite quel giorno, ben più di quelle che sono relative al numero degli imputati, e sostanzialmente poi quello che hanno fatto Carabinieri e Haller assieme è stato di andare a minacciare porta a porta le persone del comitato, dicendogli appunto: non puoi più girare con quelli, se giri con quelli noi attiviamo gli assistenti sociali per toglierti i figli, piuttosto che ti togliamo il permesso di soggiorno, piuttosto che ti sgomberiamo. Quindi facendo questo genere di ricatti verso le persone, verso persone che sono suscettibili anche a questi ricatti. Quindi magari appunto uno ci pensa su due volte prima di poter perdere la casa. Dall'altro lato noi eravamo stati arrestati, e quindi diciamo con questo duplice colpo ottennero un effetto abbastanza importante dal punto di vista psicologico. Ovviamente quello che successe dopo è anche che appunto ci fu questa militarizzazione importante, dopo la base venne rioccupata mentre noi eravamo agli arresti, ma comunque quell'esperienza non si è mai ripresa, anche perché contestualmente pochissimo dopo i nostri arresti è iniziato il piano di riqualificazione, che in realtà era da anni che era in ballo, ma appunto i primi abbattimenti dei primi edifici sono iniziati appena dopo i nostri arresti, qualche settimana dopo. Quindi parliamo comunque di arresti motivati politicamente da questa ragione qua, dal fatto, dalla volontà di voler eliminare chi si opponeva o si sarebbe opposto, perché poi era solo gli albori del processo di gentrificazione del quartiere, a quel processo là, e quindi eliminarli preventivamente per evitare poi di avere un disturbo. Da questo punto di vista l'operazione ha funzionato perfettamente, gli abbattimenti di palazzi popolari in Giambellino adesso continuano incessantemente, sono stati abbattuti anche il civico dove c'era la base di solidarietà popolare, quello che menzionavo prima che è l'orenteggio al numero 181, poi hanno abbattuto altri due civici, insomma stanno abbattendo, demolendo svariate case, da un lato per fare posto alla metro, che arriva adesso, dovrebbe aprire entro poco tempo, dall'altro perché appunto le case popolari là venivano considerate fatiscenti e quindi da demolire, da abbattere, con la chiara intenzione di non ricostruire delle case popolari dopo, ma invece di appunto costruire delle case magari per privati, o per studenti, determinate fasce di popolazione che comunque andassero a ridisegnare in qualche maniera la geografia del quartiere e la sua natura stessa. Ma vedendo quello che è successo in via Bolla, io direi che la situazione che si profila a Milano da questo punto di vista è chiara da tempo. In realtà si era già visto con altri quartieri popolari trasformati nel corso del tempo, si può pensare a Isola per esempio, che da quartiere popolare è diventato quartiere della movida, degli aperitivi. Adesso appunto via Bolla c'è stato questo sgombro, ma sappiamo che appunto Corvetto è interessata da operazioni di speculazione edilizia, così come lo è San Siro, così come evidentemente lo è Giambellino, tra l'altro non si fermano i progetti in questo senso, nel senso che ne escono fuori come i funghi ogni giorno e sono sempre più soldi. Quindi ovviamente l'intento di demolire sostanzialmente questi quartieri, di demolire l'idea di edilizia popolare, direi che è abbastanza palese. Sinceramente credo che sia un po' complicato riuscire a trovare una forma di ostacolo. Credo che in passato ne abbiamo avuto degli esempi, perché quando c'è stato nel 2014 l'opposizione ai 200 sgomberi in un mese, insomma le persone dei vari quartieri popolari si sono mobilitate e hanno preso coraggio, ma per avere questa cosa occorrerebbe una congiunzione astrale che tuttavia non sono sicuro che al momento esista. E non saprei neanche bene come si potrebbe ricreare, nel senso che personalmente credo che appunto là sia successo tutta questa cosa anche per una grossa mediatizzazione che tuttavia in questo momento non c'è, perché in questo momento si parla molto poco dei quartieri popolari, così come si è parlato molto poco della nostra questione repressiva, ma non perché fosse di per sé una questione chissà quanto interessante, ma perché è indicativa, in effetti dà la cifra di come vadano le cose a Milano, nella metropoli che insomma tende a divorare tutto. Sarà probabilmente il primo sforzo da fare rompere un pochino anche la cappa di isolamento, probabilmente anche appunto gli abitanti di Via Bolla in un contesto del genere avrebbero avuto bisogno di solidarietà concreta, probabilmente costruita anche da prima, non improvvisata all'ultimo momento. Insomma, in questo momento mi sembra che l'isolamento sia una componente abbastanza forte nei quartieri popolari e credo che, come sempre, sia la prima cosa da rompere. I'm not. Abbiamo ascoltato Diamond U Aman, traccia uscita in 7 pollici nel 2008, brano dei Supergrass, band alternative rock britannica. Quest'ultima invece era Can't Stand Losing You dei Police, tratta dal primo album Outlands d'Amour, disco rock new wave pubblicato nel 78, inserito poi nella classifica di Rolling Stones dei 500 album migliori di tutti i tempi. E rimaniamo sempre in tema case, diritto all'abitare, sgomberi. Giovedì c'è stato lo sgombero in via Bolla di un'intera palazzina, 90 appartamenti, di cui molti occupati. Questo sgombero rientra nel piano di riqualificazione cittadino ed è il progetto pilota riguardo poi a quello che avverrà nelle tre vie vicine a Navigli, dove tra l'altro stiamo trasmettendo ora. Parliamo delle vie appunto Gola, Pichi, Borsi, dove ci sono molte occupazioni e le lotte dei comitati. Dove ci sono molte occupazioni, sia dei comitati sia anche dei compagni, molte lotte riguardanti appunto il diritto all'abitare e non solo, che vanno avanti appunto da anni, da almeno 30 anni. Ci ascoltiamo quindi un contributo audio di un compagno che vive il quartiere Gallaratese vicino via Bolla, e poi torniamo con un po' di musica sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Per parlare degli sgomberi di via Bolla, in primis conviene fare un po' un punto su quella che era la situazione di via Bolla. Via Bolla è nel quartiere Gallaratese, un quartiere molto popoloso, circa 80.000 abitanti, in grandissima parte edilizia popolare, un po' è stata riscattata ed è diventata privata, ma per la maggior parte continua ad essere edilizia popolare. Case tenute bene, quasi tutte assegnate, senza grossi fenomeni di occupazione, eccetto appunto per via Bolla. Via Bolla sono tre palazzine che hanno vissuto invece lunghe storie di occupazione, quasi sempre sotto forma di racket. Non si è mai costituito un comitato degli occupanti, non c'è mai stata, diciamo, una qualche forma di presa di coscienza da parte degli abitanti della situazione, del discorso del diritto all'abitare. Fino a una decina di anni fa il racket era gestito da alcune famiglie legate alla Sacra Corona Unita, che a un certo punto decidono di vendere sostanzialmente la palazzina di sinistra del cortile di via Bolla, composta da tre scale, a questo gruppo di rom bosniaci, anche loro con una forte connotazione di criminalità organizzata. Inizialmente creano un po' di problemi in quartiere, soprattutto in termini di furti negli appartamenti, rapine in giro, anche alcune particolarmente odiose nei confronti di anziane nei palazzi. In generale da subito non riescono a rispettare quelle norme basilari di convivenza civile tipiche comunque dei caseggiati popolari. Si crea una grossa frattura tra quelli che vengono considerati e chiamati gli italiani, che in realtà non sono strettamente italiani, nel senso sono tutti quelli che non sono rom e abitano nelle palazzine in maniera regolare o irregolare, nelle palazzine di Via Bolla, quindi comprese anche la palazzina frontale e quella di destra. Nel 2015-2016 si vive un momento di picco massimo di tensione sociale che prova ad essere cavalcata dalle Alte Azioni, che organizza un corteo in quartiere con le parole d'ordine tipiche di Alte Azioni, quindi Via Bolla rialza la testa. Per fortuna vengono riconosciuti subito come fascisti e di fatto il loro tentativo di intestarsi una battaglia politica su Via Bolla fallisce. Si prosegue negli ultimi anni sempre con frequenti tensioni, negli ultimi mesi c'è stata pure una maxi rissa che ha visto coinvolte tantissime persone delle palazzine, appunto con questa divisione tra rom e cosiddetti italiani, che per fortuna non sfocia in niente di estremamente grave. Circa un mesetto fa i servizi sociali iniziano a fare un censimento degli abitanti delle palazzine di Via Bolla, della palazzina di sinistra, e a tutte le famiglie con minori più altre famiglie pure senza minori vengono assegnate delle case popolari sia di MM che di Aler, dislocate tra Corvetto, Parabiago, Gratosoglio, ed è pure curioso capire un po' come sia successo a questa cosa, perché appunto stiamo parlando di occupanti riconosciuti come occupanti a cui viene sostanzialmente regolarizzata la posizione, che è qualcosa di strano nel periodo dei decreti lupi. Però fatto sta che questa cosa qua succede e viene annunciato appunto lo sgombero, che poi è avvenuto questo giovedì. Infatti giovedì sostanzialmente non ci si trova sostanzialmente più nessuno degli occupanti all'interno della palazzina di sinistra, che si sono già spostati tutti quanti, mentre la sera prima sono arrivati una cinquantina di rom che hanno provato sostanzialmente attraverso questa occupazione ad essere inseriti nel piano di regolarizzazione. Giovedì mattina quindi un po' tutti quanti se lo aspettavano, non ci sono tensioni se non con questo gruppo di persone arrivate la sera prima, e si svolge tutto con la massima tranquillità. Arrivano veramente una quantità di polizia assurda, ci saranno stati veramente 300 tra Digos e Celere, però sostanzialmente in maniera inutile, perché non ci sono tensioni in ballo. La situazione in realtà dal punto di vista del quartiere è stata assolutamente vista in un'ottica positiva, perché la tensione era diventata insostenibile, insostenibile non in un'ottica del decoro e della legalità, nonostante quello che stia raccontando sui giornali, perché ovviamente stiamo parlando di un quartiere popolare dove è normale avere persone che fanno le tarantelle, che campano un po' come riescono, e di sicuro non hanno il culto della legalità. Ma la situazione di Via Bolla era arrivata veramente all'esasperazione dal punto di vista della convivenza civile e dei rapporti di buon vicinato. Per questo motivo è stata ben accolta, fortunatamente le altre palazzine non sono state toccate, e nelle altre palazzine comunque ci sono un sacco di occupanti, quindi non è stata un'operazione nel nome della legalità. Le valutazioni politiche poi sinceramente le lascio ad altri. Chiaro è che sullo sfondo c'è il nuovo governo, le elezioni regionali che incombono, il comune di Milano che è indietro su tantissimi aspetti di attenzione verso le periferie, sta perdendo consenso giorno dopo giorno. Quindi chiaramente questa operazione qua ha quel sottofondo, e non quel sottofondo di ragionamento politico e non certo di attenzione al territorio. Detto ciò, adesso bisogna vedere, perché in teoria già da oggi hanno iniziato a fare i lavori di recinzione per iniziare la demolizione dei palazzi interni. Rimarrà la vigilanza da parte dei cittadini per riuscire a controllare che queste palazzine appunto vengano demolite e ricostruite e successivamente assegnate in un'ottica di edilizia pubblica. Insomma, questo è un po' il quadro generale dell'operazione su Via Bolla, che appunto era un unicum a Milano, soprattutto per quello che è il contesto circostante rispetto a questo cortile. Quindi appunto questo è un po' il quadro. Allora, sono le 15.06, torniamo in diretta. Questo era il progetto One Man Band di Forest Avery Carney, in arte Mr. Kitty. Lui definisce la sua musica self-destructive synth pop a causa soprattutto dei testi che potrebbero appartenere tranquillamente al romanticismo, incentrati su suicidio e amore. Abbiamo appena ascoltato appunto After Dark, tratta dall'album Time del 2014, oggi puntata un pelo anomala di Radio Tagadà. Abbiamo sentito due contributi audio dei due compagni, appunto, uno riguardo il processo contro il comitato abitanti in Giambellino e uno riguardo lo sgombero di Via Bolla da parte di un compagno che abita in Gallaratese. Ora rimaniamo sempre in zona nord-ovest e ci lanciamo a conoscere un po' di più il calcio popolare femminile meneghino. Iniziamo questa serie di interviste con le ragazze del Partizan Bonola. Ciao, ci senti? Ciao, sì, vi sento. Ciao e benvenuta a Radio Tagadà. Allora, niente, noi avevamo intenzione di iniziare ad intervistare tutte le realtà di sport popolare femminile a Milano. Iniziamo appunto dal Partizan, quindi ti chiediamo subito com'è nata l'idea di creare una squadra femminile in quel di Bonola. Sì, ciao a tutti. Allora, io sono Caterina e gioco nel Partizan Bonola femminile. Allora, la realtà femminile è nata... perché il nostro capitano India, dopo che era nata già la realtà maschile, aveva pensato che insomma anche lei avrebbe avuto voglia di giocare, e quindi all'inizio un po' così ha iniziato a coinvolgere un po' di amiche, un po' di ragazze, e poi via via ci si è accorti che insomma il bisogno di giocare a calcio e la voglia era molto condivisa da parte di molte ragazze del quartiere, e così poi è nata la squadra. Quindi si sono aggiunte sempre più ragazze quando il nome è iniziato a girare, il nome del Partizan, e anche io ad esempio ho iniziato a giocare perché avevo visto che c'era questa squadra femminile, mi sono interessata moltissimo e quindi ho iniziato a partecipare anche io. E, diciamo che la squadra si è strutturata meglio poi nel secondo anno, perché abbiamo iniziato a partecipare al campionato del CSI. Noi abbiamo una squadra a 7, quindi giochiamo a 7, e dal 2019 giochiamo nel CSI, nella categoria Open B. E quindi abbiamo avuto lo stop a causa del Covid, però questo è il terzo anno che giochiamo nel CSI, e la realtà è molto cresciuta nel corso degli anni, perché appunto all'inizio erano poche ragazze, adesso siamo diventate una ventina e stiamo crescendo, sono cambiate molte giocatrici nel corso degli anni, siamo comunque una realtà aperta a chi non ha mai giocato in passato, nessuno di noi aveva mai giocato a calcio da bambine, magari perché si facevano altri sport, perché magari il calcio non era proprio visto come lo sport più adatto per delle bambine, e per cui magari un sogno tenuto nel cassetto che poi si è potuto realizzare da adulte, e quindi insomma è nata così la nostra realtà. Ok, ti volevo chiedere a riguardo l'interazione appunto che ha la squadra all'interno del quartiere. Un po' già ce l'hai detto, sono state coinvolte molte ragazze in quartiere, anche se ci sono interazioni con le altre squadre femminili di calcio popolare milanese, dato che nel girone vostro comunque c'è anche l'Ardita e la Sant'Ambrose. Sì, quest'anno nel nostro girone siamo capitate con Sant'Ambrose e Ardita, che appunto sono altre due squadre di calcio popolare di Milano, e infatti siamo molto contente, perché vuol dire che insomma queste realtà stanno crescendo e funzionano sempre di più. E, l'anno scorso abbiamo avuto l'occasione di stringere contatti con molte realtà di calcio femminile, perché abbiamo organizzato una specie di torneo primaverile, perché il CSI finisce presto, intorno a febbraio, E quindi abbiamo pensato di organizzare noi un altro campionato e abbiamo coinvolto una serie di squadre di calcio femminile, non solo del quartiere, anche insomma di tutta Milano. E abbiamo organizzato questo torneo che abbiamo chiamato Torneo Sorelle Boccalini, che sono cioè due signore, però al tempo due ragazze che sotto il fascismo hanno dato vita a una squadra di calcio femminile, la prima in Italia, che poi è stata sciolta a causa della volontà del regime. Perché in passato avevamo organizzato la presentazione del libro che è stato scritto su queste sorelle Boccalini, quindi abbiamo pensato di intitolare il torneo a loro, e in questo modo abbiamo coinvolto altre 7 squadre oltre a noi, quindi alcune di calcio popolare, anzi praticamente tutte di calcio popolare, più un'altra squadra che però è sempre una squadra molto impegnata nel sociale, ed è stata una bellissima occasione per conoscere e stringere rapporti e amicizie con altre squadre, al di là del campionato, che insomma non era organizzato da noi. E speriamo di poter organizzare altre iniziative di questo genere, perché ha funzionato molto bene, ed è bello vedere come insomma, la volontà di dar vita a squadre di calcio femminile sia sempre più forte e condivisa. Ok, perfetto. Io ti volevo chiedere cosa si prospetta nel futuro prossimo, insomma, per voi Rosa Fluo. Magari sarebbe interessante riuscire ad avere una squadra da 11 e iscriversi in FIGC, oppure non siete interessate a questo. E niente, se poi volete rilanciare degli appuntamenti e delle iniziative che avete in programma, poi sappiamo che giocherete domani, ma lo diciamo nella rubrica di Sport Popolare, che sarà subito dopo questa intervista. Insomma, se ci vuoi dire qualcosa per il vostro futuro prossimo, ma anche quello più ravvicinato in quanto a iniziative e partite. Ok, sì, sicuramente invitiamo tutte e tutti a venire alla nostra partita di domani, che sarà alle 5, poi dopo tu dirai tutte le informazioni. E in merito al nostro futuro, noi vorremmo creare una squadra 11 in realtà, perché adesso sono un po' di anni che abbiamo la nostra squadra 7. Però ci piacerebbe in prospettiva l'idea di creare una squadra 11 competitiva da iscrivere in FIGC, e invece mantenere parallelamente una squadra più amatoriale, per insomma, le persone che magari non hanno mai giocato, perché vogliamo essere sempre una realtà aperta a chiunque voglia provare a giocare a calcio. Inoltre vorremmo creare il settore giovanile della femminile, in modo tale da per il settore giovanile avere la prospettiva di poter giocare poi in prima squadra, nella prima squadra 11. E quello che vorremmo fare sarebbe proprio coinvolgere le ragazze del quartiere, perché comunque nella nostra zona ci sono diverse scuole superiori sono per lo più istituti tecnici, qualche liceo, e noi vorremmo coinvolgere sempre più le ragazze del quartiere per insomma dar vita a un settore giovanile e a un progetto femminile di lunga durata. Quindi questo sarebbe quello che vogliamo fare. Adesso stiamo già lavorando in questa direzione, cercando di ampliare sempre di più la nostra squadra, e sono arrivate anche delle ragazze che invece avevano già giocato a calcio, e quindi insomma la prospettiva è questa. E, per quanto riguarda gli appuntamenti, oltre alle partite, sabato prossimo, il 12 novembre, organizzeremo una giornata a tema Partizan. E le informazioni si possono trovare sul nostro profilo social, su Instagram e su Facebook. Organizzeremo una giornata che prevederà un pranzo, che per includere anche i genitori delle giocatrici e dei giocatori e tutte le persone che vogliono scoprire qualcosa in più sul nostro progetto, perché appunto poi spiegheremo un po' in cosa consiste il Partizan. Poi ci sarà l'assemblea di soci, un pomeriggio di giochi, di chiacchiere, insomma, un'occasione per stare insieme, e poi la sera faremo una cena e una serata. Quindi in realtà la giornata del 12 novembre è una giornata in cui vogliamo invitare più persone possibili per far conoscere il nostro progetto e per passare dei momenti di socialità. Ecco. Ok, guarda, a noi dispiace che poi il 12 novembre si accavalla anche la giornata del rugby, se no io personalmente ci sarei venuto. L'ultima domanda che volevo farti è: in che posizione siete in classifica? Perfetto, Adesso siamo seconde quindi perché domani abbiamo tu perso la la partita partita 3-2, scorsa. sì, Eh quello sì. diciamo. E allora quindi domani tutti a vedersi il Partizan Bonola e niente, noi ti ringraziamo e andiamo avanti con la trasmissione. Grazie mille della Grazie a disponibilità e voi. ci sentiamo per gli aggiornamenti quando me li devi dare. Grazie Va mille. bene. Dai, Grazie a ciao. voi, a presto. Ciao. Grazie, ciao. E niente, allora noi andiamo avanti, ringraziamo la compagna e ci sentiamo i Dalton, una band che ha selezionato direttamente il nostro Buon Dynamite. Salutiamo anche i Dalton, band Oi, pub, punk, rock romana, che si forma nel 2015 e che conta ad oggi 3 dischi all'attivo. Questa è In Disparte, Messi da parte, sotto proletariato, tratto dall'ultimo album del 2020, Papillon. Siamo usciti fuori impastati di merda e di monnezza. Del merito e il decoro e la grandezza su tutta marcazia dei signori. Cristo creò le case di palazzi, per principe, per marchese, per cavaliere, e la terra per noi, pace da cazzi. Non avete mai vissuto. Me ne sarò uno che arranca con poca memoria, che poco è che quindi tanto ti dona. Quello che parla troppo, troppo poco, quello che ha sempre giocato col fuoco, me ne sarò con il sottoproletario. Dalla società, ma che se batte i migliori da solo, mentre le manna tutti a fanculo, mentre le manna tutti a fanculo, perché non avete mai vissuto, perché non avete mai vissuto. Sottoproletariato, la sera nulla, che contrasta il vostro cuore operato, la vostra minaccia, per la sicurezza, per la vostra democratica, civile ed essenziale. Torniamo con tutto lo sport popolare milanese minuto per minuto, partiamo appunto dalle ragazze del Partizan Bonola, abbiamo appena parlato con Caterina. E allora, loro sabato scorso hanno perso 3-2 contro l'Assisi e giocheranno domani alle 17 in casa contro il Vittoria. Per l'altra squadra invece scritta in CSI, la maschile, sempre calcio a 11, lunedì sera, fischio d'inizio alle 21 ad Assago. Invece la FIGC mantiene il primo posto in classifica dopo il 3-1 contro il Fatima Traccia in trasferta, e domani ospiterà il Villa Pizzone. Rimaniamo in seconda categoria, Sponda Sant'Ambrose 1-1 per i Piccioni in casa contro il Palauno. Domani invece giocheranno in trasferta contro San Cristosomo. Stagione in salita per la squadra che gioca a Gorla, invece per la squadra in CSI le cose vanno leggermente meglio. 2-1 contro il Lambrate, oggi affronterà invece questo pomeriggio il Valsesia in trasferta. Le ragazze invece della Sant'Ambrose, come detto settimana scorsa, riposavano, sempre oggi scenderanno in campo contro il San Carlo Casoretto, un in bocca al lupo a loro. E sempre parlando di calcio a 7 femminile, andiamo a Giambellino. Mercoledì purtroppo l'Atletico Barona ha espugnato 1-0 il campo di Piazza Tirana, e martedì ci sarà il recupero della prima giornata contro il Fatima Traccia. Speriamo che andrà meglio per le arancionere. Invece gli arancioneri a sorpresa, primi 3 punti in casa, finalmente 2-1, un 2-1 rifilato all'Atletico Dragons, e in teoria la partita era anche in trasferta nonostante fosse giocata sempre in Piazza Tirana. Quindi primi 3 punti per la ditta Giambellino, questa è la notizia insomma di oggi della rubrica di Sport Popolare. Andiamo avanti, chiudiamo con il Dal Pozzo e la Stella Rossa. Il Dal Pozzo espugna 1-0 l'ostico campo di Arese, ostico non solo a livello calcistico ma anche a livello di tifoseria, nettamente schierata a destra se non ultradestra, ovvero piena di nazzi e fasci. Ci fermiamo qui con i commenti a riguardo, sono usciti abbastanza articoli su quello che è successo domenica, non vogliamo addentrarci a riguardo. La prossima partita invece per i gialloverdi sarà in casa contro il San Lorenzo. La Stella Rossa Rugby Milano invece domani affronterà la seconda partita di campionato, la squadra Wisp scenderà in campo in trasferta a Cernusco. Per le corse invece si aprono forse prospettive per le partite di Coppa Italia a Semen Olimpico, dato che a quanto pare anche Como si è iscritta. Saremo a vedere se inizieranno ad esserci appunto delle partite o almeno un'andata e ritorno tra la Stella Rossa ed il Como Rugby. Dallo studio è tutto, ora linea al DJ. Questo è Sundao con Foster Funk, un brano uscito appena pochi mesi fa. Vai Dynamite! Workers are fired, bosses got the power. Power will fight, the poor people go on, go on. We fed up but we won't go on, go on. In front of them we won't never lower, lower. They get more while we get fewer. And now's the night in winter with the full moon. And now's the night in winter with the full moon. And now's the night in winter with the full moon. And now's the night in winter with the full moon. Days after days, politicians try to scare away. Look at newspaper and news on TV. They try to divide every community. Zoom, zing. Do not let them thinking for way. Traders and bankers, they play with our money. Politicians help them to steal and rob. Too much corruption, graft and bribery. Boom. They get diplomatic immunity. And now's the night in winter with the full moon. And now's the night in winter with the full moon. And now's the night in winter with the full moon. And now's the night in winter with the full moon. E questi erano Step Art e Papa Jim dal 12 pollici Another Night, pubblicato nel 2013. Papa Jim insieme a MacGyver, Mary Dagg, Gil Anton e Rudy Step formano nel 2000 gli Standard Petrol, grandissimo sound system reggae dub francese. Ma ora andiamo alla rubrica che ci entusiasma di più, almeno a me e al DJ, sicuramente, che ci segnala sempre queste bellissime notizie. Nel biellese un signore esce di casa per andare a Castagne, non fa rientro in serata, scattano le ricerche, vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri per oltre due ore. In realtà viene trovato vivo e vegeto in osteria, forse con un bicchiere di vino in più di troppo. Neanche un bicchiere di vino uno può farsi, che già scattano le ricerche. Ad Amalfi invece il celeberrimo Denzel Washington, che sta girando un film, ha avuto visite, o meglio, a suo catering hanno fatto visita alle forze dell'ordine, arrestando due persone, due operai con un ingente quantitativo di droga. Avevano effettivamente molta droga dietro, e chissà che fine farà The Equalizer 3, che è il film che sta provando a girare ad Amalfi Denzel Washington. Vediamo quanti altri arresti ci saranno su set. Citiamo poi due episodi che coinvolgono i soccorsi sanitari. A Volle, in provincia di Napoli, arriva un'ambulanza del pronto soccorso di Ercolano per una segnalazione di un ragazzo che non stava bene. In realtà il figlio della signora, che è la stessa che ha chiamato, quando arrivano i soccorsi era chiuso in bagno a fumare una sigaretta, ed appena arrivati la signora ha chiesto loro di spostare i mobili del salone perché da sola non ce la faceva, aggiungendo: beh, già che siete qui potete anche darci una mano, e ci pare giusto. A Civitanova invece, forse per solidarietà ai colleghi di Ercolano che hanno fatto un viaggio a vuoto, un giovane eroe a fine servizio ha recuperato il viaggio di quelli di Ercolano ed è andato in discoteca, ma con l'ambulanza con cui fino a poco prima prestava servizio. Probabilmente era tardi, sai com'è, c'aveva il tavolo prenotato. Vabbè, tutta una serie di cose che capitano in Italia. Chiudiamo invece con un matrimonio da sogno, perché anche senza soldi si promette tutto e si può fare tutto. Ricordiamocelo, una ragazza è entrata nel negozio di vestiti da abiti da sposa, ne ha provato uno e poi è scappata correndo. Ci dispiace poi per lei, probabilmente per il suo matrimonio che è stato rovinato, perché è stata purtroppo sgamata e denunciata. Per fortuna solo denunciata, e l'abito è stato restituito. Andrà meglio la prossima volta. Vabbè, ora continuiamo dopo queste notizie dal web, che ci segnala sempre il buon Dynamite. Il prossimo gruppo invece ci viene segnalato da un'ascoltatrice, visto che la scorsa puntata abbiamo parlato con una compagna della lotta delle donne iraniane. Ricordiamo, alle 3 da Porta Venezia partirà il corteo e dopo ne parleremo durante le iniziative. Comunque abbiamo parlato con una compagna della lotta delle donne iraniane dopo la, appunto dopo l'uccisione di Mahsa Amini. Ora ci sentiamo Disturbed Memories, che è il primo lavoro della band progressive rock metal italo-iraniana. Il loro nome sono Yares Band. Ora ci sentiamo questa traccia, By Dynamite. بشه که پر از ترس از کمر بنده با تن زخم خورده میرخصه با لبای کبود میخنده میتونه صبح زود با لبخند موهاش توی آینه گیس کنه

Ricordiamo al volo anche i nostri contatti, se volete scriverci in settimana o segnalarci iniziative, potete farlo a radiotagada@autistici.org oppure al 351-5579-698. Allora, noi ora ci sentiamo i Vanilla Ice con Ice Ice Baby, Robert Matthew Van Winky, in arte appunto i Vanilla Ice, sono rapper attori statunitensi, con il singolo Ice Ice Baby è diventato il primo artista hip hop bianco ad andare in vetta alle classifiche. Il brano deve gran parte della sua fama alla presenza al suo interno di un campionamento della celebre Under Pressure cantata dai Queen e David Bowie. Nel 1990 Ice Ice Baby riscuote un successo clamoroso, seguito dall'uscita dell'album To The Extreme. Il disco rimane 16 settimane all'interno delle classifiche e vende oltre 17 milioni di copie in tutto il mondo. Ora l'ascoltiamo e noi vi salutiamo, intanto salutiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda d'Urto. Ci sentiamo per sabato prossimo, probabilmente ci sarà una puntata straordinaria di Radio Tagadà che andrà in diretta dal parco Argelati in occasione del secondo compleanno di rugby sportivo, ma ci aggiorneremo sabato prossimo e saprete cosa combineremo. Intanto ci sentiamo questa traccia, Vai Dynamite. Yo, VIP, let's kick it. Collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bullseye, the kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Now that the party is jumping, with the bass kicked in and the Vegas are pumping. Quick to the point, no faking. Cooking MCs like a pound of bacon. Burning them. Ain't quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped-up tempo. I'm on a roll. It's time to go solo. Rollin'. Hit my 5.0. Put my rag top down so my hair can blow. The girl is on standby waiting just to say hi. Did you stop? No, I just drove by. Kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo. So I continue to A1A. Beachfront Avenue. Girls were hot wearing less than bikinis. Rock men lovers driving Lamborghinis. Jealous. Cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked. Police on the scene, you know what I mean? They passed me up, could run it all. The dope fiends, if there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while DJ revolves it. Yo, man, let's get out of here. Word to your mother. ore 16, siamo fuori dalla diretta di Radio Onda d'Urto, ma continuiamo con la nostra diretta in realtà, anche per poi, in maniera tale che così poi dopo sul podcast ci sono anche tutte le iniziative che ci sono a Milano questa settimana. Allora iniziamo da un'iniziativa ludica, e ci piace segnalarlo perché per noi forse è un maestro. Stasera a Leoncavallo in via Vatto 7 dalle ore 23 ci sarà DJ Graf più Alice Pasquini, quindi live più visual più altri vari artisti. Allora invece partiamo dai momenti di piazza che ci sono oggi in città e nei dintorni. Partiamo dal corteo che abbiamo anche presentato un paio di settimane fa, da Insorgiamo contro crisi climatica, sociale ed economica. Il corteo a Monza, il concentramento era alle 2:30 a Piazza Castello, invece alle 3:30 in Piazza Santa Maria Bussarsizio demistifichiamo la propaganda di guerra, contro la guerra, la NATO, l'invio delle armi a favore di processi di pace tra i popoli. A Milano invece, come abbiamo già accennato prima, c'è sempre il corteo di Donna, Vita e Libertà, il concentramento era alle ore 15 da Corso Venezia, Together for Iran. Andiamo invece a domani. Domani ci sarà intanto una giornata di giocoleria in Baronata dalle ore 16, dalle ore 14:30 invece al Barrios in piazzale Donne Partigiane ci sarà la presentazione del coordinamento Lombardia oltre il Green Pass della manifestazione nazionale del corteo del 26 novembre che è stato chiamato a Milano anche per il corteo del 26 novembre. Probabilmente faremo una chiacchierata prima con gli organizzatori e le organizzatrici se riusciremo. Domani sempre domani ritorna il Teatro della Fornace con appuntamento ormai settimanale ogni domenica e ci sarà Bang Bang di Colpo Lui con Sandra Zoccolan, Mel Morcone e Alessio Pacifico, sempre alla Fornace di Rho in via Risorgimento 18. Gli spettacoli iniziano sempre alle 21:30. Invece domani a pranzo, scusate per la discrepanza di orari, dalle ore 11 ci sarà l'apertura del mercato e all'una il pranzo a cura dei cuochi di Cox 18, quindi il mercato agricolo e delle autoproduzioni che si tiene appunto al Cox 18 e in Conchetta, organizzato da Calusca City Light, Calusca City Light, Archivio Prima Moroni e CSA Cox 18. Sempre domani in Torchiera ci sarà Torchiera Calling, ritorniamo con una nuova chiamata agli attrezzi novembrina. Domenica 6 novembre ci ritroviamo di nuovo dalla mattina ore 10 per sistemare, montare, smontare, smuovere, spostare, spazzare, rastrellare, insomma per sistemare Cascina Torchiera. Ricordiamo che Cascina Torchiera si trova in zona Certosa. Sempre domani, un'altra iniziativa, ci sarà un concerto in Villa Occupata dalle ore 18 con Blood of Death, New York Hardcore, un gruppo Grast e poi con i Mosh e i Chap Date, Grunge Gates Rock in via Litta Modignani 66, quindi concerto dalle 18 in Villa Occupata. Mercoledì ci sarà invece l'assemblea di Non Una Di Meno presso il cantiere, organizzata in maniera pubblica per organizzarsi per il corteo nazionale del 26 novembre a Roma, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza maschile contro le donne e di genere. Mercoledì sempre ci sarà in Conchetta la proiezione di un film che fa parte della serie Oltre quelle mura di cinta, 5 mercoledì di film sul carcere, e ci sarà Attica, girato negli Stati Uniti con regia di Stanley Nelson e Terrence Curry, girato nel 2021. Giovedì invece ci sarà un'iniziativa molto interessante al piano terra e ci sarà la presentazione di Puntello. Puntello è una trave in legno, un oggetto a forma di palo, un sostegno. Nella lingua viva darsi un puntello significa incontro, comunicazione e scambio. Puntello è un'agenda condivisa di appuntamenti e iniziative nell'area metropolitana di Milano. Aiutaci a costruirla, diamoci appunto un puntello. E quindi ci sarà l'iniziativa alle 7, cibo e convivialità, alle 8:30 incontro aperto. Se intanto volete andare a spulciare cos'è questo puntello, basta andare su puntello.org, è l'agenda appunto di Milano dove si possono trovare tutti gli appuntamenti in città di movimento del giro tra virgolette antagonista e dei compagni e delle compagne. Andiamo a venerdì. Venerdì prossimo ci sarà la festa del vino al cuore in gola, benefit per i prigionieri dalle ore 18, vino, panini, musica con Lara DJ e Deep Vision. Sabato ci sarà ancora un corteo, organizziamoci per insorgere, organizzato da GTA, e ci sarà quindi questa camminata in Grado Soglio dalle ore 17. Sabato sera ci sarà il concerto live dei P38 a Milano presso il Baraonda a Segrate. Il concerto dovrebbe iniziare dalle ore 22 in poi. Si esibiranno in apertura Jung, Paninaro, Franchetti e Grave. Sempre il 12 ci sarà un altro concerto in Villa Occupata con Seeker, Strebla, La Città Dolente, Fanteria di Prima Linea, La Follia è un'altra band. E il 12 novembre in zona ticinese invece ricordiamo il secondo compleanno di rugby sportivo con diciamo un intenso programma. Alle ore 14 ci sarà ritrovo qui allo spazio comune Cuore in Gola, alle ore 15 allenamento misto al Parco Argelati, poi ci si sposterà tutti insieme sempre nella palestra popolare Torricelli che si trova sempre nel quartiere ticinese. Alle ore 18 ci sarà l'assemblea su sport, corpi e fisicità che si terrà sempre in via Torricelli 19, ma non alla palestra ma al circolo anarchico Bruzzi Malatesta. A seguire dopo l'assemblea ci sarà il terzo tempo con la proiezione della finale della Coppa del Mondo di rugby femminile, e alle 22 ci si sposta tutti insieme, tutte insieme, tutti insieme al Cox 18 per la serata benefit per i processi riguardanti lo sgombero di Corvaccio, Squat e Rosanera, per gli scontri ci sono stati in via Trecca nel novembre del 2014. La serata benefit, appunto, una notte da piloni. Suoneranno DJ Tuco, lo Stress Monos e DJ Candisha di Sorrento Techno da Trento. Bene, questi sono gli appuntamenti della settimana. Noi, come detto, abbiamo un po' sforato sulla diretta in FM in streaming, ma queste iniziative le ritroverete anche sul podcast. Settimana prossima ci sarà una puntata che proveremo a fare all'aperto dal Parco Argelati in concomitanza col secondo compleanno di rugby sportivo, quindi metteremo anche le musica all'aperto, tempo permettendo. Noi ora vi salutiamo e niente, ci sentiamo l'ultima traccia scelta per noi dal nostro mega DJ Dynamite, che si chiama Be Someone. Questa traccia, datata febbraio 2022, è uscita in Olanda grazie alla collaborazione di tre DJ e producer che sono KVSH, Shillis e Rex Bean. Questo è Be Someone. Bene, un saluto a tutte e tutti e ci rivediamo, ci risentiamo sabato prossimo sulle frequenze di Radio Onda Tutto dalle 2:30. Ciao! on this earth, living life in reverse. I walk as it all turns, I watch as the shit burns. Oh, what have I learned? It pays to be there first. So I'm waiting for my turn to reach what we deserve. Oh, no, no, no, I won't go back there no more. Oh, no, no, no, you'll see my clothes on the floor. Oh, no, no, no, you'll see I'm ready for war. Oh, no, no, no, you know what I am here for. Take a chance at a plan, I'll be my mate to the Maybach. I take a chance at a plan, I'll be my mate to the Maybach. Oh, oh.